Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Riciclaggio, Fini mai convocato di Girolamo, Scaglia atteso in Italia, Radio 24, l'amministratore delegato di Fastweb Parisi, l'azienda è sana e onesta. Il presidente della Corte Costituzionale, delegittimarci è un rischio, nessuna bizzarria quando la Corte boccia una legge. L'onda nera di gasolio verso l'Adriatico, un disastro ambientale, interventi forse in ritardo. Caso Mills, per oggi la sentenza definitiva, è iniziata l'udienza in Cassazione. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione di Radio 24, benvenuti a questa edizione di GR24. Torna oggi in Italia l'ex numero uno di Fastweb, Scaglia, coinvolto nell'inchiesta giudiziaria sul maxi riciclaggio della direzione distrettuale antimafia. Scaglia, che intanto fa sapere di voler parlare al più presto con i magistrati, dicendosi tranquillo sulla correttezza del suo operato. Delle conseguenze per clienti e azionisti delle aziende coinvolte, Telecom e Fastweb, abbiamo parlato in Salva Danaio fino alle 12.55. Dell'inchiesta parleremo tra un attimo, adesso invece parliamo delle reazioni del mondo politico, a cominciare dalle dichiarazioni del Presidente della Camera, Gianfranco Fini, che ha escluso di avere mai convocato l'onorevole Di Girolamo, considerato dagli inquirenti il capo dell'organizzazione che gestiva l'intera frode. E allora andiamo a Roma con Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Mondo politico in agitazione per la nuova ondata di inchieste ed intercettazioni che rischiano di influire pesantemente con effetti imprevedibili sul voto di marzo per le regionali. A rivendicare la propria estraneità dall'intera vicenda sul riciclaggio è oggi addirittura il Presidente della Camera, chiamato in causa da alcuni quotidiani. Il portavoce di Fini oggi spiega: il Presidente esclude in modo categorico di aver direttamente o tramite la propria segreteria o terzi telefonato al senatore Di Girolamo ed esclude altresì di averlo convocato nei propri uffici o altrove per incontri o riunioni. Questa dunque è la posizione di Fini. In generale le forze politiche si mantengono molto caute nell'affrontare la vicenda. Il centrosinistra parla comunque di questione morale aperta. Ascoltiamo la Bindi, Partito Democratico. Emerge con molta chiarezza che c'è una questione morale, è molto profonda, molto grave. Dobbiamo reagire, devono reagire le forze sane del Paese, il Parlamento, nella società. Anche perché questo governo non ha le carte in regola, non ha la credibilità morale per risolvere questo problema. Continua ad attaccare la magistratura, vuole riformare la legge sulle intercettazioni, continua ad approvare provvedimenti per difendere i politici dai processi e non nei processi. Dall'UDC Casini difende l'uso delle intercettazioni e chiede pulizia nella pubblica amministrazione. Sentiamo. Le norme anticorruzione devono essere dure ed efficaci. Le intercettazioni telefoniche sono uno strumento indispensabile per le indagini, scoprire i corrotti o i ladri nella pubblica amministrazione è fondamentale utilizzando le intercettazioni telefoniche, per cui sì alle intercettazioni telefoniche, no ai gossip riportati dai giornali. L'opposizione dunque chiama in causa il governo e le misure sulla giustizia. La replica del Popolo della Libertà è affidata al capogruppo Cicchitto. Sentiamo. In primo luogo l'opposizione vedo che dimentica che ci sono stati molti casi di corruzione che hanno riguardato personaggi dell'opposizione. Quindi questo è un problema che riguarda tutti quanti, che va affrontato con grande senso dell'equilibrio e con continuità. Per quello che riguarda diciamo così, la criminalità organizzata, questo governo ha fatto moltissimo, si faranno altri provvedimenti avendo sempre il senso dello Stato di diritto e del garantismo. Questo è il quadro politico, Alessio, e da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Dunque questo appunto è il quadro politico, veniamo invece alle reazioni del mondo economico. Ha parlato anche il ministro per lo sviluppo economico Scajola, che ha parlato sì di un bisogno di moralità ma anche di un bisogno di stabilizzare il sistema. Ha parlato Scajola a margine di un convegno economico dove è intervenuta anche la presidente degli industriali Marcegaglia, Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, la numero uno di Confindustria è intervenuta al forum Euro-Mediterraneo, a margine ha detto che nel direttivo di ieri di Confindustria è stato riconfermato il tema della legalità come tema fondamentale e ha detto Marcegaglia: abbiamo totale massima fiducia nei confronti della magistratura e altrettanta fiducia anche che le persone coinvolte possano dimostrare la loro estraneità ai fatti. Ma Marcegaglia appunto è intervenuta in questi due giorni che si è aperta oggi a Roma, 600 imprese di cui oltre 200 stranieri, 1.300 300 incontri bilaterali di affari, due giorni che ha l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Italia nel bacino del Mediterraneo e lanciare nuove opportunità di collaborazione industriale e di investimento per le nostre imprese. Il Mediterraneo non è un mare che divide, ma un mare che unisce, ha detto la Presidente di Confindustria, e i dati parlano chiaro. L'Italia infatti nei primi 10 mesi del 2009 ha realizzato verso questa regione un interscambio totale che sfiora quello realizzato con Brasile, Cina e India messi insieme. Per la Marcegaglia però occorre compiere uno sforzo per eliminare ogni forma di dazio e tariffa. E da Roma vi restituisco la linea a voi. E sentiamo allora le dichiarazioni del ministro Scajola. Ogni iniziativa giudiziaria che vuole riportare alla legalità è bene accolta, ma non c'è dubbio che ogni iniziativa giudiziaria ha dei contraccolpi. C'è bisogno di una moralità più forte, ma c'è anche bisogno di non destabilizzare un sistema. E oggi ospite di Oscar Giannino, Radio 24, a trasmissione 9 in punto, l'amministratore delegato di Fastweb, Stefano Parisi, ha così difeso l'azienda. Fastweb è un'azienda sana, è un'azienda che non commette reati, è un'azienda che vive della sua reputazione. Non abbiamo banche nel nostro pacchetto azionario che ci difendano, grandi banche nazionali, siamo stati acquistati dall'operatore nazionale svizzero. E oggi per noi è molto importante il valore della nostra attività e il valore della nostra reputazione. E essere associati, come siamo in questi giorni, alla più grande truffa mai perpetrata in Italia, con circolazioni e riciclaggio di denaro, lavaggio di denaro sporco, eccetera, eccetera, sono cose che colpiscono in modo drammatico il valore della società. Così dunque Stefano Parisi, amministratore delegato di Fastweb. Dicevamo anche degli aspetti dell'inchiesta, degli aspetti giudiziari. Secondo gli investigatori, l'onorevole Di Girolamo era il capo dell'organizzazione che gestiva la maxi frode. Sentiamo. Lui nega e dice di non avere mai avuto rapporti con i boss dell''Ndrangheta, ma alcune foto ritraggono Nicola Di Girolamo abbracciato al capoclan franco pugliese. Con loro compare anche Gennaro Mokbel, ritenuto dagli investigatori l'uomo chiave dell'inchiesta, il vero promotore dell'associazione per delinquere coinvolta nel maxi riciclaggio, il burattinaio che muoveva Di Girolamo chiamandolo in un'intercettazione schiavo. Di Girolamo, secondo l'accusa, sarebbe stato eletto all'estero grazie all'appoggio della cosca Nicoscia e Arena di Isola Capo Rizzuto e grazie proprio a Mokbel, vicino all'estrema destra e ad ambienti della banda della Magliana. I magistrati romani motivano con il rischio concreto che il senatore del PDL possa fuggire la richiesta di arresto inviata alla Giunta per l'immunità del Senato. Una decisione arriverà giovedì prossimo, ma già nel giugno 2008 il Senato, scoperto che Di Girolamo, eletto a Bruxelles, in realtà non vi risiedeva affatto, negò l'autorizzazione a procedere. Per questo Roma ora indaga anche sulle coperture politiche di cui il senatore godrebbe. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Lasciamo adesso le inchieste sul riciclaggio e invece ci colleghiamo con il nostro inviato Simone Spezia, che abbiamo mandato al seguito, diciamo così, della onda nera di combustibile che dalla Lombarda Petroli 2 giorni fa è fuoriuscita, prima nel fiume Lambro e poi nel Po, ed è diretta inesorabilmente verso l'Adriatico. Si parla di un disastro ambientale, ma si parla anche del fatto che forse qualche ritardo nei primi interventi c'è stato. Simone, buongiorno, qual è oggi la situazione? Buongiorno Alessio e buongiorno agli ascoltatori. Io mi trovo e sono ritornato dopo essermi mosso da qua a San Nazaro, a 2 passi dall'isola Serafini, che è l'isola dove si trova una diga per la centrale idroelettrica dell'Enel. Perché sono tornato qua? Perché questa notte si era detto che sarebbe passato il grosso della massa oleosa fuoriuscita appunto dalla raffineria di Villa Santa di Monza, mentre invece a quanto pare nel Lambro ne risiede ancora parecchio e mentre stamattina abbiamo visto solo qualche traccia iridescente sul fiume Po, adesso vediamo continuare a passare delle masse nere e l'odore di idrocarburi si è fatto sempre più forte. Che cosa si sta facendo? Si sta tentando di bloccare gli idrocarburi che passano in superficie con delle panne che sono in sostanza dei lunghi elementi, delle lunghe barriere assorbenti proprio appunto per cercare di bloccare gli idrocarburi. Naturalmente si può fare fino ad un certo punto. In questo momento si sta cercando di deviare questo inquinamento verso un solo lato del fiume. Di certo sarà difficile bloccare tutto ed è molto probabile che una gran parte di tutto ciò finirà nell'Adriatico. Altre questioni poi sono naturalmente il possibile inquinamento delle falde acquifere, che avrà un impatto inevitabile sull'agricoltura, e dall'altra parte la situazione di Ferrara, che si approvvigiona anch'essa da falde acquifere che fanno riferimento al Po. Vedremo nei prossimi giorni naturalmente come andrà a finire. A voi. Grazie, allora Simone Spezia, per questo racconto, e ti risentiremo in giornata se ci saranno degli aggiornamenti dal fiume Po. Adesso invece una notizia che riguarda il mondo dello spettacolo, con cui chiudiamo questa prima parte di GR24. Una pesante lettera di critica agli artisti dopo lo spettacolo è successo a Novara, dove il direttore del teatro Coccia ha scritto alla banda Osiris criticando lo spettacolo per la satira unilaterale, così dice il direttore, in tempi di par condicio. Gli artisti della banda Osiris sono ovviamente molto dispiaciuti. Sentiamo Giancarlo Macri al microfono di Marta Cagnola, lui suona percussioni e basso tubo proprio nella banda. Ci siamo rimasti molto male, anche perché un direttore artistico di un teatro non gli piace quello che ho fatto, non mi chiama più. Non c'è bisogno che mi mandi una lettera. Mi sembra tanto una giustificazione nei confronti del potere politico che l'ha messo lì. Uno, esiste una satira bipartisan, questo mi lascia alquanto perplesso. E due, nello spettacolo si parla di Berlusconi o si parla della Lega, ma accentuandone quelli che sono gli aspetti, diciamo, retorici, no, della cosa. Ci sono delle cose contro la sinistra che secondo me sono nettamente più forti di questo. Nel senso che a un certo punto si dice ogni popolo ha il governo che si merita, e un altro risponde: noi anche l'opposizione. Una par condicio a teatro non è realizzabile. Non è realizzabile. Cosa fai? Brecht non lo fai? Già c'è una politica a teatro che è la politica della scelta, che secondo me è già invitare o non invitare delle compagnie, fa già delle scelte politiche. E su questo già, se poi facciamo anche delle scelte sui contenuti e degli spettacoli, allora a questo punto non puoi parlare di Pasolini, piuttosto che non si può fare, secondo me. Poi sta nell'intelligenza del pubblico e di chi ti propone di fare determinate cose, insomma, di fare delle scelte e di leggerlo secondo la tua capacità critica a certe cose. 13:17 minuti nella prima parte di GR24, ci siamo occupati delle reazioni del mondo politico all'inchiesta per il maxi riciclaggio che ha coinvolto la Fastweb, con le dichiarazioni di Fini che ha smentito decisamente di avere mai convocato il senatore Di Girolamo, che è imputato nell'inchiesta appunto per riciclaggio. E poi ci siamo spostati lungo il fiume Po seguendo la macchia di combustibile che sta inesorabilmente scivolando verso l'Adriatico. Abbiamo sentito gli interventi che si stanno facendo per cercare di arginare questo disastro ambientale. Adesso invece l'inaugurazione dell'anno giudiziario alla Corte Costituzionale. Con le dichiarazioni del presidente della Consulta Amirante, che ha difeso la Corte dagli recenti attacchi del mondo politico, in particolare dal centrodestra. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Quando si delegittima un'istituzione, a lungo andare si delegittima lo stesso concetto di istituzione, lo dice il presidente della Consulta, Francesco Amirante, ma sentiamo un passaggio del suo intervento. Quando una Corte o un Tribunale Costituzionale dichiara l'illegittimità di una legge, non compie nulla di strano, o peggio ancora di illegittimo, ma emette una decisione che rientra nello svolgimento del principale dei suoi compiti istituzionali. Direi che forse ora la vera bizzarria potrebbe consistere nel meravigliarsi. Amirante non cita quindi la sentenza sul lodo Alfano, ma ricorda che anche tra i costituenti, comunisti e liberali, ci fu chi ritenne una bizzarria la sola ipotesi che 15 persone non elette direttamente dal popolo potessero porre nel nulla una legge emanata dal Parlamento. Sta di fatto, precisa Amirante, che tale bizzarria esiste da oltre mezzo secolo ed è ormai condivisa dalla quasi totalità dei paesi europei e da molti stati extraeuropei. All'attacco il PDL per ingegnere Capezzone, Ammirante non può far finta di non vedere un lato macroscopico, ovvero il radicale cambiamento nella giurisprudenza della Corte sulla medesima materia, la giustizia. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito, adesso invece un aggiornamento che riguarda l'inchiesta con cui abbiamo aperto questa edizione di GR24. Sono complessivamente 80 gli indagati, compresi i 56 raggiunti da provvedimenti di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto maxi riciclaggio da 2 miliardi di euro che vede coinvolti i dirigenti della società Fastweb e Telecom Italia Sparkle. Il procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, a quanto si apprende, oggi è in missione all'estero per visionare il materiale sequestrato e avviare le procedure di estradizione di alcuni degli arrestati. E adesso invece ci spostiamo su un altro fronte, perché è in corso da questa mattina in Cassazione l'udienza per il processo Mills, accusato, ve lo ricordiamo, di corruzione in atti giudiziari in concorso con Silvio Berlusconi. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Caso Mills, ultimo atto. Da un paio d'ore nell'aula magna del Palazzaccio è in corso l'udienza che porterà al verdetto, in ogni caso definitivo, per l'avvocato inglese, già condannato a 4 anni e 6 mesi per corruzione in atti giudiziari. L'udienza si celebra davanti alle sezioni unite della Cassazione, già questo è indice della delicatezza di una decisione destinata ad influire inevitabilmente anche sul processo all'ex coimputato Silvio Berlusconi, ancora in primo grado. I destini giudiziari del premier e di colui che è stato in passato l'avvocato della Fininvest sono stati separati dal lodo Alfano, poi bocciato dalla Consulta. 3 gli elementi del processo: $600.000, 2 deposizioni e una domanda. Quello fu il prezzo della corruzione? David Mills aggiustò le sue deposizioni ai processi Oliberian e Guardia di Finanza per togliere Mr. B da un mare di guai, come scrisse lui stesso in una lettera. Per la Corte d'Appello di Milano la corruzione ci fu, ma fu susseguente, cioè avvenne dopo le testimonianze in aula di Mills. Ma su questa particolare tipologia di reato le pronunce passate degli Ermellini sono state diverse, e diversa anche l'interpretazione sui termini di prescrizione, 7 anni e mezzo o 10. Se la Cassazione dovesse annullare il verdetto di secondo grado, la vicenda comunque terminerebbe qui, perché la prescrizione scatta ad aprile, e questo è valido anche per il procedimento a carico del premier, sospeso proprio in attesa della Cassazione, che riprenderà dopodomani. Alessio. Staremo dunque a sentire oggi cosa uscirà dalle sezioni unite della Cassazione. Adesso invece l'inchiesta sul G8, in attesa degli sviluppi. Il GIP di Perugia deve ancora decidere se convalidare gli arresti già ottenuti da Firenze dopo il passaggio per competenze di una parte dell'inchiesta proprio in Umbria. Oggi il quotidiano Libero pubblica sul proprio sito gli audio di alcune delle intercettazioni usate nell'inchiesta, che ha portato, lo ricordiamo, ai 4 arresti e all'iscrizione nel registro degli indagati anche del capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. C'è anche lui, Bertolaso, insieme agli imprenditori Anemone e Balducci e assieme al PM di Roma Achille Toro, dimissionato, in queste conversazioni estratte appunto dal sito di Libero. Sentiamo. Simone, sì, sono Guido, buongiorno. Buongiorno Guido, come va? Tutto bene? Te? Sì, tutto bene. Tutto a posto, tutto benissimo. Senti, sei lì al centro te? Sì, sono qui. Stanno venendo i miei 2 ragazzi che avevano una cosa per Francesca che gli dovevo mandare da tanto tempo. Ma benissimo. Una cosa o l'altra. Li intercetti te o gli dico a loro di rivolgersi a te direttamente? Benissimo, guarda, digli di rivolgersi a me quando vengono e ci penso io, non ti preoccupare. Ok. Va bene. Grazie mille, scusami. Ciao, niente, ciao. Ciao. Fagille, il numero privato, non sento nessuno. Mi sono spostato di stanza, ma questo poi è quello di casa. Volevo ringraziare per il formaggio, che qui me lo devo usare con calma, perché le condizioni mie e di mia moglie sono... Allora, ti sei ripreso? No, sono dei veri banditi, sì, Madonna. Vabbè. Sì. Cioè, questi è proprio romani che hanno vinto a tutte le parti, Lo so. Cioè, nessuno può dire non era già stata studiata a tavolino. Dare 55. Lo so. Estratti dal sito di Libero alcune degli audio delle intercettazioni nell'inchiesta sul G8. Cambiamo decisamente argomento. Alle 13:23 parliamo di sport, con la crisi dei risultati degli italiani alle Olimpiadi di Vancouver, evidente ormai a 4 giorni dalla conclusione dei giochi. Sentiamo. Ieri l'Italia ha detto addio a 18 anni di podi ininterrotti nella staffetta 4x10 km di fondo. Una caduta di Checchi, gli sci sbagliati di Dicenta e la squadra è finita nona. Oro alla Svezia, argento alla Norvegia, bronzo alla Repubblica Ceca. Causa nebbia, la seconda manche del gigante femminile è slittata oggi, ma la guarderemo per vedere chi vince, non per le azzurre, già affondate dopo la prima prova. Manuela Mölg è ottava, a 67 centesimi dalla prima, l'austriaca Görgl, ventesima la Brignone, ventunesima la Jus e trentesima Denise Carbon, quella su cui si puntava di più. Oggi cercano medaglie difficili le donne della 4x5 km di fondo, Follis, Longa, Rupil e Valbusa, Carolina Kostner, che eseguirà il programma lungo partendo da una settima posizione, e il già medagliato Alessandro Pittin nella prova individuale di combinata nordica. Laura Bettini, GR24 e Sole 24 Ore. E siamo al calcio tra campionato, Champions e Coppa, Champions League. Anche il mercoledì, quindi la serata di ieri, si è portato dietro le solite polemiche arbitrali. Non solo gol ed emozioni, il mercoledì del calcio italo-europeo lascia anche pesanti scori e polemiche arbitrali. A Firenze il blitz del Milan è favorito dall'errore di Rosetti, che non assegna un rigore per fallo di Thiago Silva su Montolivo, anche se poi Harrison non realizza l'immediata occasione da gol successiva per la Fiorentina. Leonardo, messo di fronte alla moviola, non cerca scuse. Forse sì, c'era il fallo su Montolivo e dopo forse lui ha interpretato nel modo di dare vantaggio. I viola fanno così il bis dei torti subiti in Champions contro il Bayern Monaco. Diego Della Valle sceglie il profilo basso, ma preannuncia telefonate infuocate ai vertici federali. Non serve fomentare gli animi, poi che magari nelle sedi destinate in un modo corretto e limpido ci faremo sentire, non c'è dubbio. A chiudere la serata arriva poi José Mourinho, fresco dell'errore dello spagnolo González, che a San Siro nega un rigore solare al Chelsea. Senza le manette dell'italico giudice sportivo, lo Special One va a briglia sciolta. Io ho sentito che dobbiamo abbassare i toni. È stato così che voi italiani avete costruito una storia. Quando ho saputo del calciopoli mi ha fatto vergogna. E allora, sicuri che nulla cambierà, pronti a un altro fine settimana tra campionato, gol, polemiche e moviole. Dario Ricci, GR24, il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24 con il coordinamento di Daniele Biacchesi, regia Paolo Corleoni. Adesso arriva l'Italia in controluce da Alessio Maurizio. Una buona giornata. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.